Avventurieri, in questa mappa i numeri sembrano seguire uno schema, una correlazione con le lettere dell'alfabeto, escluse le lettere straniere. Perché non provate a stabilire una corrispondenza tra numeri e lettere per capire se si cela davvero un messaggio nascosto? Ecco la sequenza di numeri comparsa sulla pergamena. 6, 9, 1, 11, 11, 1. 5, 18, 5, 16, 12, 1. 16, 9, 12, 1, 18, 1. Quale correlazione possono avere con le lettere dell'alfabeto?